GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si fingeva medico sul web, induceva ragazzine, tra cui una quindicenne friulana, a dimagrire in maniera sconsiderata e a condividere immagini del loro corpo. Un quarantenne è stato denunciato dalla polizia postale e riemerge il problema dell'anoressia. In regione diagnosi aumentate del 50% in 2 anni. In arrivo al decreto antisiccità della regione, previste limitazioni nell'utilizzo dell'acqua, colture in sofferenza, soprattutto mais e soia, in difficoltà anche gli allevatori. Massima allerta per gli incendi, ieri in fiamme 4 campi coltivati in Friuli. In regione, ho l'aumento del 50% degli ingressi dalla rotta balcanica, si sono aggiunte 6.000 persone scappate dall'Ucraina. Il dramma dei profughi in fuga da guerra e povertà riemerso nella giornata del rifugiato. Nel giornale la riflessione dello scrittore Paolo Rumiz, che oggi interverrà a Trieste a una conferenza sul tema Europa. Eccessivi gli aumenti dei prezzi dei carburanti, il Codacons presenta un esposto alle 4 procure della regione, l'andamento dei listini, secondo l'associazione, è del tutto anomalo. Il presidente della regione Fedriga contro il reddito di cittadinanza, ha aumentato le difficoltà a reperire personale in tutti i settori produttivi, dice, ma il vescovo di Gorizia Redaelli sottolinea, importante il sostegno al reddito per i poveri, la congiuntura economica è negativa. Oggi la giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, promossa dall'AIL, attivo per tutta la giornata un numero verde speciale per rispondere alle domande su questi tumori. Il ritorno del POTS, Gianmarco Pozzecco, neo CT della nazionale maschile di basket, è a Trieste con gli azzurri per l'amichevole di sabato contro la Slovenia. La pallacanestro Trieste presenta coach Legovic, che dice: è un sogno che si realizza. Le 7.20 di martedì 21 giugno, buongiorno da Livia Liberatore e Andrea Covre in studio per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cominciamo dando un'occhiata al tempo. Su pianura e costa il cielo è da sereno a poco nuvoloso, sui monti da poco nuvoloso a variabile. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 23 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi, a Gorizia e Pordenone 20 gradi, a Udine 19,5. A Tolmezzo 18 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 14 gradi, Piancavallo, Sappada e Tarvisio 13, Monte Lussari 13 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 14, tornando sulla costa a Lignano 24 gradi, a Grado 23 e mezzo, temperatura del mare 26 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi: su pianura e costa cielo da sereno a poco nuvoloso per velature, sui monti da poco nuvoloso a variabili con maggiori annuvolamenti dal pomeriggio, quando saranno possibili locali temporali che potrebbero estendersi in serata anche a qualche zona di pianura. Qualche temporale potrebbe essere più forte, farà caldo con afa in pianura di pomeriggio, venti a regime di brezza. Ora le notizie, partiamo dalla cronaca. Adescava ragazzine online inducendole a pericolose pratiche di dimagrimento e autolesionismo. Nella rete di un quarantenne denunciato dalla polizia postale è finita anche una ragazzina friulana. Un'indagine, quella coordinata dalla procura di Trieste, che ha fatto riemergere il dramma dell'anoressia. Spingeva le ragazzine all'anoressia, a procurarsi tagli, a inviargli foto delle ferite e del corpo in dimagrimento. Un quarantenne residente in centro Italia, già condannato per pedopornografia, è stato denunciato dalla polizia postale. In un gruppo aperto su una nota piattaforma social, spingeva ragazzine minorenni e fragili a pratiche alimentari e fisiche sconsiderate e ad una quindicenne friulana ricoverata da mesi nel reparto pediatrico di un ospedale della regione per gli effetti della spirale di dimagrimento in cui era precipitata, aveva anche chiesto di inviargli foto e video pedopornografici. È uno dei numerosi coach pro ANA, cioè pro anoressia, attivi sul web. In regione, come nel resto d'Italia, c'è stato un incremento di prime diagnosi di anoressia superiore al 50% dal 2020 ad oggi e sono sempre più i casi di insorgenza precoce, anche attorno agli 8 anni. Per questo l'invito è anche ai genitori. Il neuropsichiatra dell'ospedale infantile Burlo Garofalo di Trieste, Giuseppe Abbracciavento. non temporeggiare, soprattutto lì dove vedono che c'è un'escalation di alcuni segnali, che possono essere dei segnali, dei campanelli d'allarme, come per esempio prestare molta attenzione al cibo, iniziare una restrizione dell'alimentazione, avere un atteggiamento quasi ossessivo davanti allo specchio, sulla bilancia, e provare a organizzare, appunto in accordo con il ragazzo, con la ragazza, degli incontri, un incontro con dei professionisti che si occupano di questo tipo di problemi. I ragazzi hanno grandi capacità e attitudini digitali, ma spesso manca loro la consapevolezza dei rischi legati alla rete, spiega la dirigente del compartimento di polizia postale del Friuli Venezia Giulia, Manuela De Giorgi. Intanto le indagini sull'operazione, che è stata denominata Free Angels, prosegue. La polizia postale chiede la collaborazione di tutte le possibili vittime o di testimoni o di persone che comunque sono entrati in contatto con il profilo Freedema 3, che è appunto il profilo che era utilizzato dall'indagato. Trieste, Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. In primo piano l'emergenza siccità che sta interessando le aree a forte vocazione agricola. La regione sta mettendo a punto un decreto per affrontare una situazione che si presenta peggiore rispetto alla crisi del 2003. Obiettivo: limitare dove possibile l'uso dell'acqua. Il presidente Massimiliano Fedriga firmerà in settimana il decreto che dichiara lo stato di siccità in Friuli Venezia Giulia. Si lavora su una bozza che prevede indicazioni per sindaci e popolazione. Obiettivo: risparmiare acqua il più possibile, limitando l'irrigazione dei giardini privati e i lavaggi delle auto, per esempio. Per capire di più la situazione siamo andati a Zompitta, a nord di Udine, sul fiume Torre, in secca come mai in questo periodo, assicura Stefano, il casellante della presa. Succede normalmente qualcosina così nel mese di luglio, a fine luglio, e basta. Normalmente a giugno corre sempre un po' d'acqua sopra la traversa. Anche il tagliamento soffre, ma i rilasci sul lago di Verzegnis aiutano. Si può fare poco invece per l'acqua di falda. A Orzano, Friuli Orientale, tempo di irrigazione dimezzato già dal 1 giugno. Il mais ne soffre. E le difficoltà si allargano a medio e basso Friuli, ridotte anche lì le portate. Il consorzio di bonifica pianura friulana si prepara a sospendere le forniture per i non consorziati nei prossimi giorni. I passi successivi sono drastici, se non pioverà a sufficienza. Si parla di messa in asciutta dei canali, ma non solo. Il direttore tecnico Stefano Bongiovanni. Valuteremo ulteriori misure di interruzione completa dell'irrigazione, ma insomma in certe zone o su certe colture, ma queste sono decisioni forti che sinceramente auspichiamo di non dover prendere. Per affrontare meglio le prossime stagioni, il consorzio sta pensando a laghetti a basso impatto ambientale. La presidente Rosanna Clocchiatti. Permetterebbero a delle culture di pregio di avere l'acqua e quindi continuare ad avere delle grosse produzioni per il PIL poi regionale, e dall'altra parte però anche in zone dove l'acqua non c'è, se penso alle zone limitrofe a Udine, alle zone collinari, dove ci sono delle culture di pregio ma in tempi diversi pioveva, attualmente non c'è l'acqua, quindi abbiamo anche questo tipo di richiesta. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Un appello ai cittadini affinché consumino acqua in modo consapevole, corretto ed equilibrato è stato lanciato dal sindaco di Udine Fontanini. In particolare il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale chiede di evitare l'uso dell'acqua potabile a fini irrigui e limitare i consumi nelle prime ore del mattino e alla sera. È emergenza anche nel Pordenonese. In difficoltà non solo gli agricoltori, anche gli allevatori sono alle prese con l'aumento dei costi dell'acqua. Campi di soia nel Pordenonese, la zona, quella dei Magredi, i rubinetti dell'acqua si chiudono. Gli agricoltori sono preoccupati, non è ancora iniziata l'estate sul calendario, ma la siccità sta mettendo in ginocchio le coltivazioni. Si può resistere ancora una settimana in certi campi, prima di veder compromesso l'intero raccolto di una stagione dove sono anche aumentati i costi di fertilizzanti e carburante. Il costo del gasolio del trattore di Pierangelo Spagnolo, famiglia agricola da 3 generazioni, è passato da 85 centesimi al litro a febbraio a 1,33 euro oggi. Sono sconsolato perché oggi subiamo riduzione della quantità, del quantitativo d'acqua che ci verrà fornito per poter irrigare le nostre colture, e in questa situazione non è sostenibile, insomma non sono sostenibili le nostre coltivazioni. Purtroppo a fronte di un aumento dei costi energetici, un aumento dei costi dei fertilizzanti, che soprattutto per quanto riguarda il mais ci hanno portato un 50% in più dei costi di produzione, non poter vedere garantita la possibilità di poter portare a casa il prodotto alla fine dell'estate ci preoccupa enormemente. Difficile anche pensare a colture alternative, sia per gli investimenti fatti nei campi, sia perché queste colture darebbero anche redditività marginali. Ora si può soltanto aspettare la pioggia, quella che manca da mesi, in modo costante addirittura da gennaio in certe zone. Pioggia fondamentale per chi, come Franco Baselli, nella pedemontana pordenonese non può utilizzare l'acqua dei bacini. Nelle sue stalle una settantina di mucche da latte, nei suoi campi orzo, mais, colza e girasole. Abbiamo i prati dove sfalciamo, facciamo il fieno, che siamo 50% rispetto agli anni scorsi, in quanto mancata l'acqua l'erba non è venuta su quel poco, però niente di più. Topo di Travesio, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. E la siccità favorisce gli incendi di vegetazione secca, 4 i roghi che si sono innescati ieri pomeriggio, ad Arba dove sono andati in fiamme 1000 metri quadrati di un campo, a Coseano con 4500 metri quadrati di estensione dell'incendio, a San Giovanni al Natisone e a Manzano dove sono andati in fumo ben 10 ettari di campi coltivati. In tutti i casi sono intervenuti i vigili del fuoco che a Manzano sono riusciti a fermare le fiamme prima che iniziassero a minacciare alcune abitazioni. Voltiamo pagina. A Trieste si conferma il punto di passaggio di tantissime persone in fuga dalle guerre. In occasione della giornata del rifugiato siamo andati a vedere qual è la situazione in Piazza della Libertà, dove i volontari di diverse associazioni assistono i migranti in transito. Trieste, punto di arrivo per tantissimi migranti in fuga dalle guerre. Il flusso dalla rotta balcanica è in linea con il 2021, quando però è aumentato del 50% rispetto all'anno precedente. E da marzo sono arrivati in regione 5.950 ucraini. All'arrivo vengono identificati, ma non tutti riescono ad avere la stessa assistenza. Gian Andrea Franchi, presidente Linea d'Ombra. Sappiamo che a poche centinaia di metri, nelle boscaglie del Carso, arrivano come fantasmi quelle persone che poi noi tocchiamo con mano letteralmente qui in piazza, feriti, malnutriti, depressi. L'altro giorno c'era qui una famiglia curdo-turca, sappiamo che i curdi in Turchia non se la passano bene, con 5 bambini, di cui il più piccolo avrà avuto 2 anni. Ogni giorno i volontari di Linea d'Ombra, ICS, Comunità Valdese e IRC accolgono i migranti in transito in Piazza della Libertà, perché durante il Covid è venuto a mancare il servizio di prima assistenza. Tra di loro c'è Ismail, rifugiato fuggito dal Pakistan perché lottava per i diritti delle donne. 2-3 settimane fa la signora era con il bimbo, hanno dormito qua nel pezzo di piazza e poi sono partiti, quindi ovvio che c'è una differenza, lo vedi, non è che io mi invento, lo vedi, già basta scendere un giorno in piazza e vedi cosa succede. Alessandro Papes di IRC. Quasi tutti hanno segni di violenza subite ai confini, hanno telefoni rotti o non li hanno, hanno i segni del lungo cammino. Quello che stiamo cercando di fare qui è un po' un tappare una situazione che però andrebbe gestita in un altro luogo. Anche questo ragazzo minorenne è stato spesso picchiato e respinto per ben 19 volte. Da mesi non ha notizie dei suoi 2 fratelli e di suo padre, militare della Repubblica, fuggito dall'Afghanistan dopo il ritorno dei talebani. Ora è solo. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Europa dunque meta sognata dai profughi della guerra in Ucraina, ma anche da chi arriva dalla rotta balcanica, mito di pace e libertà per chiunque fugga da un conflitto. È il tema della conferenza Europa, mito e meta, che si terrà alle 18.30 nella Sala Xenia a Trieste. Tra gli interventi in programma quello del giornalista e scrittore Paolo Rumiz, che al nostro microfono lancia il suo appello all'Europa. Il mio appello è ricordiamoci che noi veniamo tutti da lontano. I popoli europei vengono tutti da lontano, quindi nostra madre è una migrante da certi punti di vista, ce lo ricorda un mito vecchio di almeno 3.000 anni che è il fondamento della nostra identità, quindi non c'è differenza tra chi arriva dall'Afghanistan, chi arriva dall'Ucraina o chi arriva dalla Somalia. E lo sbarco di questa gente sancisce l'inscindibilità tra il nostro continente e il Mediterraneo. Per capire chi siamo, per uscire dalla trappola che fa guardare all'Europa come a un palazzo di vetro e cemento pieno di burocrati che ci dettano le regole dell'esistenza, per uscire da questo, togliamo l'articolo alla parola Europa e diciamo io vengo da Europa, io sono Europa, io amo Europa, io ho il mal d'Europa, come una volta si diceva, ho il mal d'Africa. Questo perché viviamo anche un momento in cui è facile illuderci di stabilire chi siamo tramite l'esistenza di un grande nemico comune, in questo caso è chiaramente la Russia, ma questo non basta, è una scorciatoia. Il nemico ci dice al massimo che cosa non siamo, non ci dice però chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando. Per questo mai come oggi è importante ricordare il mito fondativo del nostro continente. Cos'è dunque l'Europa per i migranti che forse non è più per noi? L'Europa è un sogno, io l'ho scritto nel mio ultimo libro, Canto per l'Europa. Europa è il sogno di chi non ce l'ha. Noi che ci abitiamo sazi da secoli abbiamo perso il gusto e l'amore per questa nostra terra e andiamo a cercare paradisi altrove. In realtà il paradiso è qui e lo capisce chiunque arriva dal mare o arriva dalle steppe d'Oriente. L'Ucraina, il governo di Kiev è critico nei confronti del colosso friulano Danieli, leader a livello mondiale nella produzione di impianti siderurgici. Il Ministero della Difesa ucraino sul suo account Twitter ufficiale ha affermato che dopo 4 mesi di guerra su larga scala, l'italiana Danieli collabora ancora con gli stabilimenti russi, fornendo attrezzature per la produzione di sottomarini nucleari e blindature per carri armati. Sostenere il complesso militare russo, afferma ancora il Ministero della Difesa ucraino, è contrario a considerazioni legali e morali. Nessuna replica al momento da parte della multinazionale con sede a Butrio, che all'inizio di quest'anno aveva ottenuto 2 importanti commesse per la realizzazione di impianti siderurgici in Russia. Mondo del lavoro, la ADM Electron di Buia, produttrice di schede elettroniche, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Udine, che un mese fa non aveva omologato il concordato e che ha nominato giudice delegato Gianmarco Calienno e curatore fallimentare Sante Casonato. Lo hanno comunicato FIOM CGL e FIM CISL, che hanno raccolto le preoccupazioni dei 40 dipendenti, per i quali la cassa integrazione straordinaria guadagni scade il 27 giugno. Spetterà ora al curatore fallimentare decidere se dare prosecuzione all'attività o se chiuderla subito. Sciopero nazionale oggi con manifestazione a Roma per i lavoratori di Telecom Italia. L'astensione dal lavoro è stata indetta dai sindacati di categoria di CGL, CISL e UIL per protestare contro le ipotesi di scorporo della rete e lo smembramento del gruppo previsto dal nuovo piano industriale che verrà presentato nei dettagli il prossimo 7 luglio. In regione i dipendenti di TIM sono 440, concentrati soprattutto nelle sedi di Trieste e Udine, e con l'indotto gli occupati arrivano oltre 600. Oggi a Roma sarà presente anche una delegazione di lavoratori e di rappresentanti sindacali del Friuli Venezia Giulia. A Gorizia è critica la situazione della Biblioteca Statale Isontina, i cui dipendenti, dopo 5 mesi di vertenze, ieri hanno incrociato per la prima volta le braccia. Uno sciopero per sottolineare la cronica mancanza di personale. Dopo gli ultimi pensionamenti, infatti, non ci sono più bibliotecari in servizio. Sulla situazione ha fatto sapere la presidente del gruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani, è stato già allertato il ministro della Cultura, Franceschini. A portare il proprio supporto per sbloccare la vertenza è intervenuta anche Tiziana Gibelli, titolare dell'assessorato regionale alla Cultura, insieme a esponenti di primo piano dell'ambito culturale isontino. La crisi dello stabilimento triestino della Flex. Ieri c'è stato un tavolo in regione che l'Unione Sindacale di Base ha giudicato in una nota infruttuoso sul piano pratico, poiché non sono previsti strumenti né soluzioni politiche per erogare i 3 euro di integrazione anche ai lavoratori somministrati sottoposti alla riduzione di orario di lavoro. Le agenzie interinali presenti, fa sapere l'USB, al di là dell'ampia disponibilità a discuterne, hanno confermato che non ci sono spazi. Nella sostanza l'integrazione salariale dovrebbe essere a carico dell'azienda, ma nell'accordo, nel contratto di solidarietà, sottolinea l'USB, non è previsto. Anche in Friuli Venezia Giulia la magistratura dovrà intervenire sull'escalation dei listini dei carburanti. Il Codacons ha presentato infatti un nuovo esposto alle procure della Repubblica di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone e all'Antitrust, chiedendo di indagare sui rincari di benzina e gasolio. Oggi la benzina costa oltre il 28,5% in più rispetto allo scorso anno, mentre il gasolio è rincarato di circa il 37,5% sul 2021, spiega l'associazione. Un andamento dei listini del tutto anomalo che si registra nonostante il taglio delle accise disposto dal governo e che, secondo Codacons, non sembra essere giustificato dalle quotazioni petrolifere. La difficoltà di trovare del personale per l'agricoltura è un problema trasversale a tutti i settori produttivi e in questo il reddito di cittadinanza ha giocato in negativo un ruolo importante. Meglio sarebbe dirottare parte di quelle risorse alla riduzione del cuneo fiscale per aumentare i salari, soprattutto di chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a San Giorgio della Richimvelda nel corso di un incontro con i rappresentanti delle cooperative agricole del territorio. Fedriga ha anticipato che nella prossima manovra di assestamento sono previsti una integrazione del fondo di rotazione per le imprese e nuovi fondi per il fotovoltaico. Stiamo molto attenti a che ci sia qualche forma di reddito nei confronti dei poveri, poi si può discutere se va bene il reddito di cittadinanza oppure no, ma l'importante è che ci sia comunque un'attenzione, perché la congiuntura economica che si prospetta essere non delle più felici. Lo ha affermato il presidente di Caritas Italiana Carlo Redaelli, vescovo di Gorizia, a margine del 42esimo convegno nazionale delle Caritas diocesane che si è aperto ieri pomeriggio a Rho Fiera. Secondo Redaelli ci sono persone in grossa difficoltà e in certe zone la richiesta oramai di aiuto è per le bollette, oltre al lavoro, naturalmente. Bollette, gas, luce e acqua, rinnovati i protocolli del Comune di Trieste con il gruppo ERA a favore delle famiglie svantaggiate. L'obiettivo è di prevenire i distacchi e favorire i percorsi di autonomia delle persone e delle famiglie. I protocolli avranno validità fino alla fine del 2023. E a Trieste il Partito Democratico lancia una serie di iniziative pubbliche sul tema della sanità. Oggi l'avvio con dei banchetti in Campo San Giacomo dalle 18 alle 20, domani a Muggia in Piazza della Repubblica dalle 10 alle 12. La nostra idea è quella di tenere aperta una linea diretta con i cittadini, annuncia la segretaria del PD Triestino Conti, un vero e proprio osservatorio permanente sulla sanità, di cui spiegheremo scopo e funzionamento. E oggi è la 17esima giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma promossa dall'AIL. Un'occasione per sottolineare i progressi della ricerca scientifica e per fornire aiuto e consigli ai pazienti ematologici attraverso iniziative anche sul territorio della nostra regione. Ce ne parla Giuseppe Gioffrè, presidente della sezione AIL di Udine. A livello nazionale ci sarà dalle 8 alle 20 al numero verde 800-226524 i maggiori ematologi all'italiano che possono rispondere a tutte le domande che ci sono sulle malattie e anche dare dei consigli. Questi ematologi rispondono direttamente da Roma, il numero verde è gratuito. In Friuli Venezia Giulia noi abbiamo principalmente fatto un'attività precedente l'11 giugno con una camminata per la vita per quanto riguarda i pazienti ex pazienti vicino Udine, mentre con un'associazione, l'associazione Vanessa e altre associazioni abbiamo regalato i giocattoli 17 al Burlo Garofalo e poi siamo partiti da Monfalcone su tutta la dorsale adriatica arrivando a Pescara e a Lecce per regalare ancora giocattoli ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici onco-ematologici. Avete svolto attività di aiuto anche verso i pazienti in arrivo dall'Ucraina? Quando è scoppiato il conflitto, tramite l'organizzazione europea a cui noi siamo affiliati, ci è stata chiesta la possibilità di ricevere dei pazienti ucraini e sono arrivati dei pazienti ucraini a Trieste, completamente alloggiati a spese dell'AIL, ricoverati presso le strutture ospedaliere di Trieste e con un supporto ai familiari di questi pazienti che è stato totale, nel senso che è stato fornito cibo, vestiario, la possibilità di alloggiare e soprattutto di avere un interprete che potesse facilitare il rapporto con i medici. Sono tanti gli appuntamenti in programma oggi per la Festa Nazionale della Musica promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. A Gorizia, Nova Gorizia, sulla piazza Transalpina si terrà il concerto jazz del gruppo Audaci Coraggiosi di Zlatko Kaučić alle 21. A Pordenone il concerto disegnato di Tre Allegri Ragazzi Morti alle 21.30 all'esterno del Teatro Verdi. All'Università di Udine un concerto multiplo nell'Aula Magna Colbe a partire dalle 17. Si comincia con un duo pianistico, a seguire spazio al coro e orchestra dell'Università di Udine e infine un programma di standard jazz. A Monfalcone, teatro e musica in spiaggia dalle 17.30 e dalle 18 alle 20, spazio ai cori in piazza Cavour. Concerti dalle 19.30 in piazza Falcone, Borsellino e a Panzano. L'Accademia Organistica Udinese organizza una staffetta con 5 concerti di organo in altrettante chiese di Udine. Si comincia alle 17 in cattedrale. Torna Udine Estate, la rassegna di musica, teatro, incontri, danza e feste che porterà nel capoluogo friulano oltre 400 eventi. Si comincia oggi, nel primo giorno d'estate. Dopo 2 anni di pandemia ritorna di nuovo Udine Estate, che per sottotitolo potrebbe avere il piacere dell'aggregazione, della condivisione e del ritrovarsi. Non solo spettacolo con musica, teatro, danza, il tutto sarà inframmezzato da incontri con l'arte, feste, letture, giochi e visite guidate per venire incontro a tutti i gusti. L'apertura è il 21 giugno, primo giorno d'estate, con uno dei simboli della città, la fanfara della Brigata Alpina Iulia, in un luogo simbolo, la Loggia del Lionello. Sono oltre 400 gli eventi in cartellone, compresi anche appuntamenti sportivi, mercatini, itinerari del gusto, scoperta di angoli insospettati, scorci suggestivi. Classicissimo per l'estate il cinema all'aperto, con oltre 120 proiezioni tra il parco, Loris Fortuna e il Visionario. Il 1° luglio il chitarrista newyorkese Steve Vai aprirà sul piazzale del Castello la stagione dei grandi eventi live, che tra gli altri prevede esibizioni di Francesco Gabbani, Steve Hackett, una tappa del Festival Sungs e in collaborazione con Folkest sul piazzale del Castello, i Jethro Tull e Alan Stivell, decano dell'etno folk celtico gaelico. Impossibile dare l'elenco completo degli appuntamenti, che spaziano da Pasolini al jazz, dalla danza classica alle suggestioni enogastronomiche. Sono in programma anche mostre d'arte come quella di Banksy and Friends nella chiesa di San Francesco e dell'architetto udinese Raimondo Daronco, cui si deve anche il progetto del municipio di Udine. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 7.44, siamo allo sport, il basket, la nazionale italiana di Gianmarco Pozzecco è a Trieste e questa mattina alle 11 sosterrà il suo secondo allenamento al Pala Trieste in vista dell'amichevole di sabato contro la Slovenia. E per la Pallacanestro Trieste è stata l'occasione ieri per presentare il nuovo coach per la prossima stagione, Marco Legovic. Il primo allenamento del triestino Pozzecco alla guida della nazionale nel Palazzo dello Sport della sua città è il primo ad uscire dal pullman davanti all'altro concittadino Stefano Tonut, che al Pala Trieste ci è cresciuto. Azzurri senza i big in questa settimana di lavoro. Nella seduta pomeridiana tanto lavoro fisico e poco pallone in vista dell'amichevole di sabato contro la Slovenia, che stasera arriverà in città. Poche le speranze di vedere in campo il fenomeno Doncic per motivi assicurativi. Intanto sempre all'Allianz Dome presentato il nuovo allenatore dei biancorossi Rossi e Marco Legovic, anche lui triestino, 29 anni, da 7 anni assistente e tra i più giovani di sempre nel ruolo. Una scelta dettata, secondo il club, non da ragioni economiche. Mario Ghiacci, presidente Pallacanestro Trieste. Scelta audace, una scelta nella quale noi ci crediamo molto, è un ragazzo che ha lavorato tantissimo, se lo merita. Se lo merita lui e se lo merita anche il progetto di Pallacanestro Trieste, perché è l'esempio di quello che noi programmiamo e dobbiamo dargli la massima fiducia perché se la merita. Legovic, molto emozionato ma anche determinato, ha bene in testa il tipo di squadra che vorrà vedere in campo nel prossimo campionato di Serie A1. Sicuramente grande aggressività, offensiva e difensiva. La difesa dovrà essere un punto da cui partire e sicuramente tutto dovrà essere costruito però durante la settimana di allenamento. Cosa porta Marco Legovic alla Pallacanestro Trieste? Sicuramente tanto entusiasmo, voglia di fare bene. Per me è un'opportunità unica di essere capo allenatore di Trieste, quindi un sogno. Il nuovo coach triestino si unirà nelle prossime ore allo staff della Nazionale Under 20 per preparare gli europei di categoria e tornerà a fine luglio. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Partirà ufficialmente lunedì 4 luglio la stagione 2022-2023 dell'Udinese. La squadra guidata da mister Andrea Sottil si radunerà allo stadio Friuli in mattinata per poi svolgere alle 18 sui campi del Bruseschi la prima seduta di allenamento. Bianconeri in ritiro poi in Austria a Lienz dall'11 al 27 luglio. In programma una serie di amichevoli. Volley Serie A2, Simone Scopelliti è il nuovo centrale della Tinet Prata Pordenone, originario di Reggio Calabria. Calabria, classe 94, Scopelliti ha una formazione di qualità maturata nei vivai di Modena e Vibo Valentia. Poi per lui 9 campionati tra A1 e A2 con le maglie di Vibo, Castellana Grotte, Gioia del Colle, Sora e nelle ultime 2 stagioni Reggio Emilia. Porta in dote oltre 200 incontri giocati, un muro solido e una fisicità importante. Il ciclismo, partono oggi i campionati italiani a cronometro individuale, in programma anche domani lungo le strade di San Giovanni al Natisone, Cividale, Premariacco e Manzano. Al via tra gli altri il 2 volte iridato Filippo Ganna, il campione nazionale in carica Matteo Sobrero e l'idolo di casa Alessandro De Marchi. Tra le donne protagoniste la campionessa italiana Elisa Longo Borghini e la friulana Elena Cecchini. Oggi gareggeranno per il titolo gli allievi e gli juniores. Domani chiuderanno Under 23, donne elite e professionisti su un percorso di 35 km che termina con la salita all'Abbazia di Rosazzo. Alle 7.47 apriamo la nostra rassegna stampa partendo dal Piccolo di Trieste che sceglie l'economia per l'apertura della prima pagina citando un rapporto nazionale che ha analizzato le buste paga italiane. In regione salari tra i più bassi del nord Italia, il titolo, retribuzioni medie annue ferme a 29.500 euro, in Lombardia si sfiorano i 34.000, calo dell'1,1%. Una grande foto in prima pagina annuncia l'articolo che il Piccolo ha dedicato ad A, l'enorme imbarcazione del magnate russo Melnichenko sotto sequestro e ora in rada nel Golfo di Trieste. Il Piccolo si è avvicinato alla zona rossa che la circonda per osservare da vicino il colosso dei mari. In prima pagina anche la storia del falso medico denunciato che spingeva adolescenti a diventare anoressiche, mentre la cronaca di Trieste del Piccolo si apre con l'annuncio del passaggio del controllo del gruppo Crismani al colosso ecoambientale Itelium. Firmato il preliminare, l'operazione sarà perfezionata in luglio. Alla famiglia resta una quota del 30%. Istigava l'anoressia, denunciato falso medico, è l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. Nella fotonotizia, canali e pozzi prosciugati, nuove limitazioni all'irrigazione in Friuli Venezia Giulia. Sulla destra il coronavirus, in provincia i ricoveri per Covid in aumento, pochi i casi gravi. E poi ecco i nuovi prezzi delle casette dell'acqua in tutto il Friuli. Da Buia, l'ADM Electron dichiarata fallita innanzi a 40 lavoratori. Infine, imprenditore a processo per i prosciutti con certificati falsi. Sul fondo una storia da Udine, le bici in centro e il bar che rallenta la corsa dei ciclisti. Ecco quanto costa la burocrazia invece l'apertura del Gazzettino di Udine. Con un calcolo, in un solo anno il Friuli brucia qualcosa come 400 milioni solo per carte e autorizzazioni, un problema per comuni e singoli cittadini. Nella foto in prima pagina un piano di difesa dagli animali alieni in Friuli Venezia Giulia, sulla colonna destra a processo per gli insulti al giudice degli Osei. E poi fuggi dei dottori dalle aree meno ambite. Nell'edizione isontina del Piccolo in prima pagina i riferimenti alle grandi manovre dopo il voto a Monfalcone. A Monfalcone si legge nell'apertura delle cronache della città dei cantieri Francesco Volante è ormai un ex assessore. Il precedente responsabile delle politiche per lo sport è stato infatti escluso a sorpresa dalla giunta. La decisione della rieletta sindaca Cisinta è stata quella di premiare Fabio Banello, sempre della lista civica Monfalcone Vola. Per domani è attesa la presentazione del nuovo esecutivo municipale. Le cronache di Gorizia del Piccolo si aprono invece con il caso della biblioteca statale isontina. Lavoratori in piazza per la biblioteca è il titolo, l'attacco ai silenzi del ministero. A luglio va in pensione l'ultimo dipendente superstite. Pronti a tutto, dicono i dipendenti, non molleremo, l'istituzione è a rischio. Ecco quanto costa la burocrazia e l'apertura anche dell'edizione di Pordenone del Gazzettino. La fotonotizia è sulla sicurezza, arrivano le prime telecamere nel Bronx. In taglio centrale, i medici ospedalieri contro quelli di base, più visite, meno esami. Sulla destra, sospesa la gara per il nuovo carcere a San Vito. Dal Messaggero Veneto di Pordenone leggiamo la cronaca locale, blackout, in centro a Pordenone, case, uffici, torri di e senza luce, allarmi e ascensori. KO. Poi crisi cardiaca, morto a 60 anni il direttore dell'archivio di Stato. La cronaca, giovane accoltellato nel sottopasso a Porcia, quinto ragazzo sotto inchiesta. Nella colonna di sinistra forniture a singhiozzo, Electrolux ferma le fabbriche. Sul fondo non solo pizze, la Roncadina adotta 650.000 api. Le 7.51 diamo un'occhiata ad altri appuntamenti della giornata. Arriva a Trieste il Festival estivo del litorale. Alle 21 alla Sala Bartoli del Politeama Rossetti, in scena il tenace soldatino di piombo che reinterpreta la celebre fiaba di Andersen. Primo appuntamento della rassegna teatrale Antiche Dimore, alle 18 al Castello di Rive d'Arcano, lo spettacolo La Signora di Rive d'Arcano. I Radio Zastava, collettivo di musica etno-balcanica nato a Gorizia, si esibiranno in concerto nel Polynot Music Festival a Stevena di Caneva stasera alle 21. Al via la 15ª edizione del Piccolo Opera Festival con lo spettacolo La Leggenda del Re di Albus. Inizio alle 18.30 al Castello di Spessa, conclusione nella vicina Villa Russitz. Al Museo Ebraico di Trieste, concerto Shabbat Shalom, canti e parole di vita, canti ebraici dall'antichità ad oggi, dal Mediterraneo all'Occidente, alle 21. Performance di luci e suoni del friulano Alberto Novello, Laser Drawings, a Trieste alle 21 nel Parco del Museo Sartorio. Presentazione del libro Cime Tempestose, alpinismo al femminile, storie d'amore di Bianca Agarinis-Magrinin alle 18.30 al Museo Friulano di Storia Naturale di Udine. Da oggi sulla piattaforma Adesso Cinema, curata da Cinema Zero, Visionario Cineteca del Friuli in collaborazione con Tocar Film, sarà possibile vedere in streaming gratuito il documentario sulle vie della vittoria, sulla visita che il re d'Italia Vittorio Emanuele III, la regina Elena e la figlia Yolanda fecero ai luoghi sacri della Grande Guerra. Il breve viaggio si svolse tra il 21 e il 25 maggio di 100 anni fa. La storia dell'epilessia, degli studi e delle cure, incontro alle 17 alla Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, organizzato dalla sezione medicina del Circolo della Cultura e delle Arti. L'ingresso è libero. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Uè o Fevelin D parlerà dei soggiorni estivi marini a Lignano Sabbiadoro dedicati alle persone con disabilità. A seguire dalle 11.20 a Radar si parlerà di come nasce un farmaco, di turismo sostenibile e del libro La costruzione dell'identità di Anna Oliverio Ferraris. I programmi regionali tornano poi alle 13.30. Alle 7.54 si chiude questa prima edizione del giornale radio regionale, curata e condotta in studio da Livia Liberatore e Andrea Covre, andata in onda grazie alla collaborazione tecnica di Carlo Morello e Maurizio Mona. In redazione ha collaborato Samantha Gon. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.